a bordo campo. È stato nominato dal CONI fra i 12 sportivi italiani più importanti del Novecento e questo non è poco, anzi direi, nella storia del nostro sport azzurro. Ma il nostro ospite di oggi qui a bordo campo non guarda tanto e solo a Londra 2012, che è l'appuntamento che abbiamo tutti in calendario, ma è già proiettato verso Rio 2016. Allora, intanto andiamo con ordine, presentiamolo, benvenuto Alvise De Vidi. Sì, salve a tutti, ciao. Allora, per chi non lo conoscesse, Alvise De Vidi è uno dei maggiori campioni dello sport paralimpico italiano. Alvise, sinteticamente, perché sennò finisce la puntata, ricordaci qualcuno dei tuoi allori. Sì, beh, 5 paralimpiadi fatte da Seul ad Atene, 13 medaglie, 7 di queste 13 sono d'oro. L'ultima, forse la più bella, la maratona vinta ad Atene, arrivando al Panathinaikos Cup, perciò una soddisfazione immensa, veramente la gara più bella della mia vita. Beh, vengono i brividi solo a rivederla negli occhi, quella scena. Ma so che sei in corsa anche per Londra 2012, perché vuoi esserci, anche se poi tu, abituato a vincere la maratona, quest'anno sei costretto a cimentarti su tutt'altra distanza, eh? Sì, il programma delle gare ovviamente è un po' variabile. Non c'è più la maratona, ma ci sono gare molto brevi per la mia categoria, i 100 metri, perciò mi sto allenando per questa distanza, anche se ovviamente non è la più adeguata alle mie caratteristiche. Ci provo, cerco di qualificarmi, le speranze sono buone, ho fatto recentemente delle gare con dei buoni tempi e cercherò di migliorarmi. Adesso abbiamo altri due appuntamenti molto importanti, vediamo di essere chiamati a per la 6ª Paralimpiade. Sarà veramente per me una grande soddisfazione essere a Londra. È una cosa straordinaria, ma sarebbe una soddisfazione per tutto lo sport italiano. Tra l'altro, mi ricordavi lo stadio Panathinaiko, che effetto ti fa vedere invece le sofferenze odierne di quella Grecia che ti vide invece protagonista di quella straordinaria vittoria sulla corsa più prestigiosa, la maratona? Ah, forse l'unico momento di soddisfazione e di grande gioia per quella nazione sono state proprio le Olimpiadi e le Paralimpiadi del 2004 e forse anche l'inizio di un percorso economico difficile. Noi siamo stati molto bene, poi per gli sportivi, insomma, essere in Grecia, ad Atene, la culla dello sport antico e moderno, poi chi ha corso la maratona in quel percorso suggestivo e mitologico, tutti ci ricordiamo Baldini, ecco, io un mese dopo ho avuto la fortuna di ripercorrere quelle strade, una soddisfazione immensa, una gioia, un ricordo indelebile, e vedere adesso la Grecia con questi problemi, insomma, è un dispiacere mio personale da sportivo per quello che ho vissuto lì in quel paese. Beh, speriamo insomma che torni presto il sole a splendere sul Partenone, ma non parliamo solo di ricordi oggi, ma parliamo di un futuro, neanche di quello prossimo, ma di quello a lunga scadenza, direi, perché so che tu già sei proiettato, al di là di come andrà e speriamo vada veramente bene la corsa verso Londra 2012, già punti a Rio 2016, in modo del tutto impensabile, innovativo rispetto alle tue abitudini sportive, vero? Perché qui l'avventura si chiama wheelchair rugby, il rugby in carrozzina. Io quando ho saputo che stavate cominciando a giocare anche a rugby ho strabuzzato gli occhi. Parlaci un po' di questo progetto. Sì, è Rio 2016 è un progetto molto ambizioso, ma partiamo da prima, come è nato. Diciamo che sul suggerimento di Luca Pancalli, il nostro presidente CIP, insomma, abbiamo cercato di avviare questa nuova disciplina. La FISPES, che è la federazione di riferimento, poi ha portato avanti questo percorso. È nato un gruppo di atleti con l'aiuto di un allenatore austriaco, perché in Italia non esiste questa disciplina. Diciamo che esiste da tantissimi anni, è nata in Nord America, in Canada, poi si è diffusa negli Stati Uniti e in Nord Europa, ma in Italia ancora non aveva visto nessun passo. Un anno fa circa è nato questo progetto, si sta formando un gruppo di giocatori, per ora purtroppo solo in Veneto, in Friuli e qualche altro raro caso, qualche altro ragazzo che gioca a Genova, Palermo, a Bolzano, ma insomma arrivare a Rio de Janeiro non sarà per niente facile, perciò, però noi ci crediamo, insomma, stiamo lavorando con questo. C'è uno stage tutti i mesi, è uno sport molto affascinante, se vuoi, ecco, ne parliamo. Assolutamente sì, perché quello che incuriosisce me, immagino tutti i nostri ascoltatori qui a bordo campo, è quello di sapere anche un po' le regole, no? Come viene adattato in chiave paralimpica questo rugby, che poi in realtà di punti di contatto con il rugby che conosciamo tutti, ne ha, ma anche di differenze, no? Sì, è un mix di sport, si chiama Wiltshire Rugby, ma un po' si riferisce anche al pallacanestro, all'hockey ghiaccio, alla pallamano. Si gioca in un campo di pallacanestro, 28x15, 4 giocatori per squadra, a ogni giocatore viene assegnato un punteggio di classificazione, il team deve essere formato non da più di 8 punti, la classificazione è un po', diciamo, la cilindrata del giocatore, per avere dei team equilibrati. Certo. E si segna portando la palla che non è ovale ma è una palla rotonda simile a quella della pallavolo, oltre due birilli che formano la porta è larga 8 metri. Del rugby ovviamente c'è il contatto non fisico tra le persone, tra i giocatori, ma tra le carrozzine, ci si può ovviamente scontrare con forza, anzi è quello il bello del gioco. Insomma, ve le date di santa ragione pure il Sì. Welcher Rugby, ecco. Con le carrozzine, anzi, spesso ci sono cadute e scontri molto violenti, però non si può toccare il giocatore perché ovviamente si correrebbe il rischio di fare del male all'avversario. Infatti, ho visto qualcosa su YouTube, insomma, ci vuole il CID, sono belli scontri a Dei bei certo tapputtamenti, vero? punto. Sì. Normalmente il passaggio è libero, poi ci sono delle regole di secondi come nella pallacanestro, 12 secondi per superare la metà campo, 10 secondi per passare la palla o palleggiarla, si può passare in tutte le direzioni, non è obbligatorio passare Ah, ecco, solo non c'è la cosa all'indietro. della palla all'indietro su No, no. cui i rugbisti veri scrivono pagine e pagine di letteratura. Voi potete andare anche avanti, insomma. Anche avanti, sì, e ovviamente è uno sport molto dinamico, fatto di corsa, di tecnica, di passaggi, di tattica, veramente uno sport affascinante che si riferisce un po' anche alla pallacanestro in carrozzina, per chi già la conosce, è uno sport Sì. in Italia molto diffuso, anche l'Italia è stata campione d'Europa più di una volta. E ci sono carrozzine ovviamente particolari, molto rinforzate perché devono sopportare delle belle botte tra telai. E senti, è misto uomini e donne o ci sono squadre maschili e femminili? Diciamo che la stragrande maggioranza dei giocatori sono maschi, però possono giocare anche le donne, Oh, questo è solamente bello, questo ci piace. sì, e hanno un abbattimento di punteggio, di classificazione per ovviamente incentivare la loro partecipazione. C'è addirittura la volontà di rendere obbligatorio la presenza di una donna nei team ai campionati del mondo e alle Paralimpiadi. Oh, Questo sarebbe bello, bello molto questo, bello. perché, anche perché è importante, gruppi eterogenei a livello anche più basso, immagino facilitano la socializzazione, la costruzione dello spirito di squadra, credo sia importante. E poi si arriva più facilmente al numero minimo di partecipanti. Sì, ecco, questo è un dato negativo purtroppo che ancora noi stiamo vivendo qui in Italia, il reclutamento. Non riusciamo ancora, anche se siamo partiti da poco, a trovare nuovi giocatori, anzi ne approfitto per tutti i tetraplegici che hanno voglia di provare questa disciplina molto bella, molto spettacolare, di contattare la FISPES o il CIP, insomma basta navigare su internet e si trovano tutti i riferimenti. E venire ai nostri stage perché stiamo cercando giocatori in tutta Italia per ovviamente creare diverse realtà e poi creare un campionato che magari nei prossimi anni si può sviluppare e questo darebbe modo di aumentare le possibilità di qualificarsi pari, perché più giocatori, più squadre, più competitività, ovviamente il livello si alzerebbe molto. Benissimo, anzi, rinforziamo l'appello dicendo che chi è interessato può anche mandare una mail a bordocampo@radio24.it. Lo ripeto, l'indirizzo mail a bordocampo@radio24.it, e noi la giriamo al VISE, al Comitato Paralimpico Italiano e alla FISPES, la Federazione Paralimpica Sport Paralimpici Sperimentali, perché tentare non costa nulla e anzi col Welcher Rugby ci si diverte. Allora, grazie ad Alvise De Vidi per essere stato un nostro ospite qui a bordo campo. E allora un grande in bocca al lupo per lo sprint per Londra 2012 e poi il grande augurio di arrivare in meta a Rio 2016, Arvise, eh? Grazie a voi di questo spazio e dell'in bocca al lupo, speriamo di risentirci con qualche bel risultato, magari con le prime vittorie da Guilce Rugby, con un grande successo che ovviamente stiamo cercando. Grazie a voi. Per a bordo campo di oggi è tutto, grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete scriverci alla mail a bordocampo@radio24.it, riascoltare la puntata attraverso il nostro sito www.radio24.it e dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo, sempre sulla nostra pagina web. L'appuntamento è per domenica prossima alle 14.30 e ogni sabato mattina in replica alle 6.30. Buona giornata da Dario Ricci.